questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la terza ora del sabato del villaggio. Abbiamo cominciato a parlare dei regali di Natale. Ah sì? Perché bisogna cominciare a comprarli. Non fate come me che arrivo. No, ma l'avranno fatto tutti venerdì. Allora, il 24 dicembre io lavoro la mattina. Sì, il pomeriggio anch'io. Comprerò tutto. No, io lavoro anche il pomeriggio, quindi niente, non li compro. Quindi, no, esatto. Cara famiglia, quindi non avrete i regali. Hai comprato il Black Friday? Non ho comprato, anzi, forse lo odio. Odio il Black Friday. Allora, hashtag odio il Black Friday. Sai che io abito in un posto piccolo, in un quartiere di periferia. Sì. E c'era nel bar. La piccola fiammifera. Esatto, i cartelli oggi Black Friday. Cioè, ma il cappuccino dai. Costa. Sì, il cappuccino. Cappuccino e brioche 2 euro. Ieri mattina sono andato. Ho pagato 2 euro cappuccino e brioche perché era Black Friday. Ma inizio a pensare che il digitale faccia male. La mattina del venerdì, tipo alle 9, avevi nella mail già quanto? 25. Ma le macchine, compreso le macchine. Sì, dalle sì, macchine sì, sì. A. Non so, qualunque cosa, quello per fare i pediluvi. Io non ho guardato, non ho aperto certi siti perché mi sarei comprata delle cose che non mi servivano, chiaramente. Poi perché si chiama Black Friday? Allora, c'è, qualcuno dice perché quel giorno lì chi ha i conti in rosso diventano in nero. Cioè? Perché vendi di più. Ah, ok. Quindi ma ti non lo aiuto. So, non sappiamo idea, se. Non ho idea. L'altra grandissima storia. Ma la verità la è che tu sei un po' nervoso. Sì. No, per una ragione. No. Questa settimana tu mi sei un po' nervoso. Non sono nervoso. No, no, so dove vuoi arrivare. Se io ti sento un mi po' sono agitato, sfogato, Daniele. Mi sono no, sfogato. Io ti sento un po' nervoso. No. Aprimi il tuo cuore. Sì. Dimmi cosa non va. No, va tutto bene. No, c'è quest'aria di Natale. Sì, no, va ci tutto sono bene. Le luminarie. Ha ragione Luca. Ho capito, vuoi arrivare lì. Luca senti. Mastrangelo. Senti. Sentiamolo. Senti. Come cazzo si fa? Come cazzo? Come cazzo si fa a perdere 2 partite su 2 contro il Birsheva e a farsi eliminare con un turno di anticipo in un turno in un girone dei cartoni animati? Ma allora siete veramente stronzi! Allora siete veramente gente. Ah, mi scuso per l'Inter. Le parolacce, chiedo scusa Luca per le parolacce. Luca Mastrangelo, che abbiamo avuto anche ospite, lo salutiamo con la sua solita flemma, reagisce? No, secondo me era la fredda cronaca, in sostanza reagisce a questa sconfitta che c'è sta. La cosa più bella è quando dice in un girone dei cartoni animati! L'hai detto anche tu in quel momento, eri imparato. Aveva in mano un bastone di una scopala, sì. Praticamente in questi 4-5 minuti di vlog che ha fatto, che ha, perché lui, come posso dire, noi ci immedesimiamo nella rabbia che lui esprime davanti a questa telecamera. Okay. No. Quindi diciamo, lui è come se lo fa lui per tutti, per la comunità. Ah, ma è vabbè, la catarsi. Ecco, non mi veniva una parola sì. Da colto, meno male che ci sei tu, e quindi io lo ringrazio. Io invece pensa che non ho visto l'Inter, ma no. Ho visto la Juventus, perché? Ovviamente Juventini tutti contenti, perché ero a Strasburgo sì. E l'unica preoccupazione dei colleghi italiani a Strasburgo, sono andato questa mattina in onda un euro reportage sul premio Lux, era trovare un posto per vedere la Juve. È molto bello. La Juve non cosa. Esiste. Io mi sono pensato che io per un altro giro strano mi sono un giorno, venerdì o sabato scorso, mi ricordo, trovato a Torino davanti alla sede del male. Mi è comparso la sede del male. Ho anche postato la foto, mi sono trovato davanti e ho detto il baratro, ecco il male. Ho visto il male da vicino. Vabbè. Ma siccome anch'io voglio prendere in giro te, sì. Perché ce l'hai tanto con un quartiere, con un mondo, con una cultura? E io ho trovato un cantante. Un cantante neomelodico vero, pare. Un cantante neomelodico che... Anche come Luca raccoglie la rabbia e l'ironia degli interisti arrabbiati, ecco lui raccoglie quelli che non ne possono più degli indie. Degli indie. Allora, che noi abbiamo anche avuto, dei giornalisti, esatto, non lo so ragazzi, come si chiama. Poi tra l'altro non posso neanche parlare male perché poi verrà anche Calcutta tra qualche giorno. Quindi secondo me ecco, mi menerà ecco, Calcutta. Perché ma Marta no, Cagnola odia gli indie? perché tutti questi giornalisti un po' emaciati che vivono tutti nello stesso quartiere, si parlano, diciamolo, solo all'isola di Milano, ma a Roma vivono al Pigneto, si guardano, ecco, parlano tra loro, stanno tra loro, ecco, vanno a vedere i loro stessi, ecco, cantanti, lo so, ordinano la spesa online così non parlano con le persone. Infatti, ma come fanno a scrivere del mondo? Infatti, se la cantano, se la suonano tra loro. Infatti tu godi quando gli indie diventano pop, cosa che è, certo, avvenuta con, certo, i giornalisti che sono, l'avevamo previsto, sì, esplode, sì. Ecco, allora c'è Savastano, tra l'altro un cognome bellissimo, Enzo Savastano, Enzo pare Savastano sia un cantante neomelodico vero. E questa è una cosa bellissima. Io sono grande fan già da adesso di Enzo Savastano. Perché? Ascoltate perché. Guaglio, ha già saputo che tu hai parlato male dell'indie. Hai parlato male di Brunori. Tu sai quello che ha fatto Brunori per il mondo dell'indie? Issa ha portato la melodia, ha portato sentimento, issa ha portato femmina. No, ma io lo conosco a Brunori, siamo amici da tempo, gli ho scritto tutte le canzoni. Ho messo da te, e la fraca se te so cordione mo con te. Spiaccia di guardia nove che gente, la pena dice che gente, si parlava di spo. Vivere come a volare, ci si può riuscire soltanto appoggiando su cose leggere. No, è Bruno, e dai, la stiamo provando da tre ore. Dai, non viene, non ma dica il sentimento, dove sta? Questo è il neomelodico, mica indie. E dai. E poi, dove sta il sentimento? Questo è il neomelodico, mica indie. Dario, cercatelo, Brunori, che incontra, esatto, Enzo Savastano. Ciao Bruno Risas, c'è un pezzo su Indie questo mese. E presto mi sa che esce anche il disco. Bravo, chissà, bravo, se Dario. Sarà pop. Bravo, indie. Dario. Non odiarlo più l'indie, dai, Marta, fai pace con l'indie. Vieni a pigliare perdono. Non mi viene la cosa. Senti, ma è finito il tempo, possiamo mancano dire... solo 30 secondi, possiamo dire qualcosa su Beatrice? Beatrice Di Maio, la storia della settimana. Allora, attenzione, Beatrice Di Maio, qualcuno referendum ha scritto, non lo so. Allora, diciamo niente. Raccontamelo senza violare la par condicio. Allora, Beatrice Di Maio è Elena Ferrante. Ha scritto qualcuno, non è mia, giuro, non è mia. Poi twitto di chi è perché non me lo ricordo in questa. Beatrice Di Maio, account, che cosa faceva? Se la prendeva tanto con il nostro premier, possiamo dire premier, non diciamo il nome e cognome, non diciamo come si espone al referendum, no. Se la prendeva molto e sembrava molto più favorevole a quel partito che ha una M, un 5 e una S, le delle stelle nel simbolo, okay. Quindi abbiamo capito più o meno. E quindi tutti dicevano, è una persona che appartiene a questo, movimento. Che non diciamo come vota al referendum. Allora, poi si è scoperto, anzi l'ha scoperto pare il nostro collega Franco Bechis, sì? Che era la moglie di Brunetta, no, esponente, vabbè, dell'altro schieramento ancora, cioè del terzo. Cioè questa è una storia che se tu la racconti a un qualunque giornalista estero ti dice... rispiegamelo perché non ho capito. Io non niente. So se l'hanno capita gli ascoltatori, ma neanche noi l'abbiamo. Il mio commento è: sono felice di vivere in questo paese. Bellissimo. Un paese dove la storia più semplice è sempre surreale. Sì, sì. Nasconde dietro, e questa è veramente e questa, surreale. E questa è veramente bellissima. Vabbè. Traffico. Comunque noi è Marta Cagnola, et di Bellasio, hashtag Radio Tube, hashtag ISDV. E adesso? Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Radio Tube. Beh, l'abbiamo smaltita la sbornia delle elezioni americane? No, anche perché sono le uniche elezioni di cui possiamo parlare senza che il garante del trumpismo. Sì, infatti abbiamo fatto un delirio adesso sul referendum e sulla storia di Beatrice Di Maio, che nessuno avrà capito nulla. Niente, perché nulla, non potevamo ovviamente dire sì, no, forse, niente. Allora, però dunque, non è che negli Stati Uniti non stia succedendo niente, sta anzi. Sta succedendo la qualunque, un po' ce l'aspettavamo, Ma noi, per farci raccontare che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, sì, abbiamo deciso di fare una sorta di bilancio assieme a una giornalista che per una televisione importante di All News ha seguito, adesso ci facciamo raccontare per quanti anni, non so, 5, 6, 7. Però adesso, siccome forse perché è arrivato Trump, adesso le chiediamo se è per quello, comunque cambia e quindi è giusto prima di cambiare fare un bel bilancio di questi anni americani, no? Esatto, le chiediamo subito se è per colpa di Trump, io non credo. No, sono una sua grande fan, lei è bravissima, io non la conosco, quindi la conosco in questo momento. Pinto. È più che bravissima. Da Sky TG24, buongiorno a Liliana Faccioli Pintozzi. Ciao. Buongiorno Liliana, piacere. Buongiorno a voi, che piacere brava. Mio, buongiorno a tutti. Ma mia, che brava, autorevole, giovane ma autorevole. Da quanti anni sei giovane, negli perché USA? I giovani non possono essere autorevoli. No, vabbè, di solito sai, sembrano più autorevoli quelli che hanno una certa età. In che, da quanti anni sei negli USA? Sette, chiudiamo l'esperienza. Fai il settennato, Vado via insieme a Obama, vado via insieme a Ban Ki-moon, anno di cambiamenti, andiamo tutti via, lasciamo Trump alla sua nuova America. Ma è colpa di Trump che te ne vai, no? No, assolutamente, anche perché devo dire, a prescindere dal suo messaggio politico, è stata una campagna elettorale meravigliosa, seguire la sua cavalcata è stata veramente giornalisticamente molto divertente, politicamente molto interessante, e quindi no, non me ne vado per lui, però insomma andiamo a vedere l'onda lunga che ha portato lui alla Casa Bianca, cosa farà in Europa e cosa ha già fatto in Europa. Perché vai a Londra? Perché apriamo l'ufficio a Londra, quindi si parlerà di Brexit, ma si guarda tutta l'Europa con le elezioni in Francia, le elezioni in Germania. Insomma, sarà nel 2017 un anno molto europeo. Beh, lì manderete qualcun altro però, diciamolo. Lì certo, ovviamente, ovviamente. Abbiamo già la nostra Giovanna Pancheri che da Bruxelles si è spostata a New York, è brevissima, si è già fatta la campagna elettorale anche lei, abbiamo lavorato insieme molto bene. E ora il testimone passa a lei su New York e io me ne vado a Londra. Ecco, hai detto una campagna elettorale meravigliosa. Questo è bello perché tutti invece dicono la campagna elettorale più brutta della storia, c'è una lagna su quello che è successo in America. Perché è meravigliosa? Ma secondo me è meravigliosa perché è vero che è stata una campagna di poco, con tutti poco di contenuti, no? Si è parlato poco di programmi. Ora, a parte il fatto che io devo ancora trovare una campagna elettorale che sia puntata unicamente sul programma e poco sugli insulti reciproci, diciamo che secondo me gli americani non hanno fatto una cosa che non si sia mai vista nel resto del mondo. Ci ho detto è stata meravigliosa perché è stato abbiamo visto il popolo americano partecipare moltissimo a questo voto, la famosa maggioranza silenziosa di Donald Trump si è fatta sentire, ha parlato, e ora vedremo poi se sarà veramente maggioranza, perché sappiamo il voto popolare in realtà premia Hillary, però ha recuperato al voto fasce della popolazione che si sentivano abbandonate, e questo certamente è un pregio che lui ha avuto. Ora il messaggio politico è molto populista, ha sdoganato, ha fatto uscire dalla lampada geni che ora lui cerca di controllare, cercherà di rimettere dentro. Ci ho detto però lui ha parlato a una parte di popolazione che nessuno pensava ci fosse più, quasi che ne esistesse più, e ha dimostrato che insomma anche la classe sociale più attenta e più premiata da un'amministrazione si può poi tradire. Stiamo parlando delle tute blu che hanno avuto molto da Obama, lo hanno premiato nel 2012, ma questa volta hanno votato per Trump. Però giustamente diceva prima Liliana che in questa campagna elettorale sono tornate fuori delle parole, degli atteggiamenti che appunto sembravano essere dimenticati, anche perché usciamo da 8 anni di presidenza di Barack Obama, cioè del primo afroamericano presidente degli Stati Uniti. E questa settimana per esempio a CNN è successo che una conduttrice si sia addirittura commossa perché in diretta è stata detta una determinata parola. Senti un po', Marta. Sentiamo. But we have bigger problems here. Also in July, you know, he selected as his vice president the most homophobic man in American public life, a person who believes that gay people actually do not have the right to exist. And then, you know, if you don't want to support the alt-right, don't choose as a White House counselor a man who uses the word nigger, whose wife says that he did not want his daughters to go to a school with too many Jews. Allora, c'è una parola negli Stati Uniti, esatto, che non si può talmente pronunciare che si dice N-word, cioè la parola che inizia con la N. L'ha utilizzata un commentatore di destra, Charles Kaiser, alla CNN. La conduttrice ha detto non si possono dire queste parole e si è messa a piangere. Sì, peraltro la usava per criticare chi l'aveva usata, però insomma certo, è successo. Però insomma l'ha usata di fatto e la conduttrice si è scusata e si è messa a piangere. Liliana, è il segno di un'aria che si respira? Che lui l'abbia utilizzata, intendi? Ma che anche lei si sia messa a piangere? No, che lei si sia messa quasi a piangere. In realtà per dire, per essere molto colloquiali, su quella parola volano le teste, cioè chiudono gli show, chiudono le carriere, finiscono, perché porta il peso della storia americana, del Ku Klux Klan, del razzismo, della schiavitù, cioè è una parola veramente, è una lettera scarlatta più che una parola. Certo, adesso c'è un'attenzione particolare, ma che se poi vogliamo, è vero che usciamo da 8 anni di presidenza del primo afroamericano, ma è anche vero che usciamo da anni di scontri razziali, quindi non è che sì, non ci fosse nel paese. Il razzismo nel paese, cioè, è una ferita profondissima, ancora estremamente sottovalutata, se non negata da alcune parti di popolazione. Il famoso, quando loro dicono il tuo essere bianco non ti permette neanche di capire di cosa stiamo parlando esattamente. E infatti io ho intervistato tantissimi afroamericani, da Denzel Washington a professori, e tutti lo dicono, ma anche anchor televisivi eccetera, tutti dicono che c'è una insicurezza da parte degli afroamericani, cioè il timore esiste, è concreto. Quindi non è che Trump abbia cambiato questa cosa, il problema è che negli 8 anni di Obama noi abbiamo visto la condanna del razzismo istituzionalizzato, la condanna degli atteggiamenti razzisti da parte della Casa Bianca, quindi della massima autorità. Ora si teme che con Trump quella condanna non sia più altrettanto forte, e comunque, siccome lui è arrivato con una serie di messaggi alla Casa Bianca, chi è razzista pensa che ha vinto lui le elezioni e che quindi adesso ha il diritto di dire e fare quello che vuole. E questo secondo me è il lascito peggiore di Trump, che magari sarà un ottimo presidente a livello economico, non lo possiamo sapere, è un punto di domanda in politica estera, ma a livello interno dovrà veramente sanarla questa ferita che ha creato, e l'ha creata molto profonda. Liliana, che cosa ti porti in valigia dagli Stati Uniti? E non mi riferisco, chissà intanto quante valigie ti porti a casa, ma di questi mica sette... sono tutti come te, magari. Vabbè, ma scusa, perché no? 7 anni sono tanti. È giovane e bella, si che può portare porti anche una... tacchi alti a Londra. Ma... tacchi alti assolutamente. Scusa, perché Daniele pensa che sia smorfiosa solo io, vabbè, ma concedici un po' di femminilità. Qual è la cosa più preziosa che ti riporti di questi 7 anni? L'etica del lavoro americana, veramente, che è una cosa che impressiona, la dedizione al lavoro, e poi mi porto dietro 7 anni meravigliosi, è stata una bellissima esperienza, insomma facciamo i giornalisti per questo, quindi ne è valsa veramente la pena, tantissima fatica anche mi porto dietro, conto di riposare un po', però diciamo no, l'etica del lavoro è una cosa che gli americani possono insegnare, hanno tanti difetti ma hanno anche tantissimi pregi, e questo è sicuramente quello che mi piace di più. Bellissimo. Quindi dovremmo abituarci a, da Londra, Liliana Faccioli Pintozzi, ci metteremo un po' a abituarci, però ti ma seguiremo. Da quando? Allora partiamo da gennaio, e ovviamente sempre su Sky TG24, quindi su satellite, su digitale terrestre, mi raccomando, al canale 50, che è fondamentale, e da subito, sì. Dopo le vacanze di Natale si riapre. Bello, grazie. Grazie Liliana, buon lavoro e a presto. Ciao, buona Londra. Grazie, ciao, grazie. Noi facciamo una breve pausa e poi noi invidiamo Londra. Per un attimo ho pensato a New York e poi a Londra. Andiamo in Francia, tra poco però. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta YouTube. Je l'ai dit, je le répète, et d'ailleurs tout le monde est en train de prendre conscience, on ne supprimera pas 500 000 emplois de fonctionnaires en 5 ans. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Eh bien, je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Je lui réponds que si on ne prend pas tous les risques maintenant, alors je me demande quand est-ce qu'on les prendra. Ma che schi spasse, ma che schi spasse, ma chi son til? Ho fatto rumore con la sedia, sì, ma chi son til? Ma che schi spasse? E c'erano due signori che si stavano litigando durante un comizio, perché abbiamo appena finito di parlare di America e adesso io ho già un friccicorino elettorale. Sì, perché non italiano. No. Italiano. Oui non, et non. Non, non. Come si dice bene? Oui ou oui, non. Non, non. Non, non. C'est pas du... No, no, non nel senso no, di oui. No. Oui, oui, non. Oui. Vabbè, peut-être. Insomma, domani sì? Si vota per il ballottaggio francese tra Fillon oui. E Juppé. Oui. Mm. Fillon è in vantaggio perché al primo turno ha preso a sorpresa 44,5% dei voti. Juppé, che invece era favorito, è dietro, ma chissà, ormai i sondaggi non valgono per quel sì, che infatti, valgono, ormai e quindi non sappiamo. Chissà però, se in Francia funzionano. Però questa campagna elettorale è diventata divertente non soltanto perché è la prima dopo il fenomeno Trump ed eravamo resto, un po' in crisi d'astinenza. Non soltanto perché in Francia c'è la Le Pen, fenomeno in qualche modo assimilato a... Ma perché ha perso Nicolas Sarkozy? La premiere gli è andata male. Ah, povero subito, dai, vediamo subito questa cosa della premiere. Io ho detto la premiere nel senso delle primarie. Tu vuoi subito la premiere d'âme. Allora, io ho trovato... Sì, così parliamo poi bene. Sì, da France Inter c'è un imitatore di Carla Bruni. Che lei voleva tornare all'Eliseo. Sì, io ho riso come una pazza, però forse rido da sola perché è francese, ma questo è successo a France Inter. Pardon, je sais qu'il vous faut une chanson de madame. Oh oui, chouchou, j'ai une nouvelle chanson. Tu m'as dit que Fillon ne valait pas grand-chose. Tu m'as dit que Juppé fanait plus qu'une rose. Tu m'as dit qu'ils étaient tous nuls et hypocrites. Tu me l'as dit en reprenant deux fois des frites. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu perdais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'on te mettait dehors. Mais moi je t'aime encore. Bravo. Allora, qualcuno mi ha detto che tu avresti perso ancora, qualcuno mi ha detto che ti avrebbero messo fuori, però io ti amo ancora, ha detto Carla Bruni. E il testo diceva, satira, però l'ha il detto testo davvero. Diceva, mi avevi detto che Juppé non valeva niente e che Fillon, o che era il contrario, sarebbe appassito come una rosa e invece però... Je t'aime encore. Sì, lei ha scritto su Instagram, a volte i migliori perdono. Sì, con una bravo, roba tutta... Bravo, mon amour. Sì, e invece l'ex moglie ha postato una foto di foglie morte. Foglie cadute, una roba terribile. Cecilia ha fatto sta cosa cattiva? Oui. Io amo Cecilia. Va bene, sì, diventiamo seri. Seri, se anche questo comunque abbastanza cosa serio. Cosa è successo in Francia? Abbiamo un esperto, ce l'abbiamo in studio. Il responsabile della redazione Mondo del Sole 24 Ore, Attilio Geroni. Ciao Attilio. Attilio, ciao. Ciao Marta, cioè, ciao. Noi abbiamo fatto scendere addirittura il responsabile per commentare queste idiozie che diciamo. No, dai. Però dai, in questa satira qualcosa di vero c'è, insomma. Sì, ma poi questa canzone che Marta ha rimandato nell'imitazione mi ricorda la fesseria che feci io quando tanti anni fa, leggendo una recensione del disco di Carla Bruni sulle Monda, lo andai a comprare. Perché una fesseria? Perché, a parte per quella favore, canzone. Mia moglie commentò, se la incidevo io non mi si filava nessuno. È un personaggio, altre qualità diciamo. No. Sì, sì. No, poi questa canzone era anche quella originale, era anche carina. Quella e basta. Vabbè. Comunque, perché Sarkozy ha perso? Sarkozy ha perso perché era già stato presidente e in quanto presidente Sarkozy ha, come dire, ha sprecato, secondo me, io ero lì in quegli anni come corrispondente del Sole 24 Ore, anch'io mi ero esaltato pur non essendo propriamente di centrodestra, e il messaggio di Sarkozy, le promesse di Sarkozy mi avevano attirato parecchio. In realtà lui aveva promesso non di cambiare la Francia, ma di cambiare il mondo. Ecco, il mondo è cambiato, ma non grazie o a causa di Sarkozy, e lui è rimasto fuori dai grandi giochi. Quali sono le differenze proprio a grandi linee per seguire poi i risultati tra Juppé e Fillon? Diciamo che il programma di Juppé è una versione più gentile di quella di Fillon, nel senso che tutte e due hanno come dire, una matrice liberista, tutte e due vogliono in qualche modo riformare le 35 ore, Juppé le vuole ritoccare, le vuole disinnescare, mentre Fillon dice basta, cambiamo l'orario legale di lavoro, che per gli standard francesi continua ad essere un anatema. Lo stesso Sarkozy, no? Lui cercò di aggirarle detassando gli straordinari, cosa che non ha funzionato perché con lo scoppio della crisi tutto avevano bisogno le fabbriche francesi fuorché di straordinari con la riduzione della capacità produttiva. Questo e poi è molto forte il programma di Fillon sul terrorismo. Ecco, sul terrorismo è un programma paragonabile a quello di Sarkozy e per certi versi a quello della Le Pen, linea dura contro il terrorismo, ma proprio se, anche sui migranti. Senti, lo spirito dei tempi è uno spirito di trumpismo, lepenismo, populismo, e gli occhi dell'Europa sono puntati sulla Francia, perché è il primo grande appuntamento elettorale, dopo quello che non possiamo citare, dell'anno prossimo. Fillon e Juppé in teoria sarebbero nell'immagine due personaggi distantissimi dal trumpismo. C'entrava più Sarkozy con quel mondo un po'... Sì. Come mai, secondo te... cioè, forse è la prima delle ricette contro quel tipo di spirito dei tempi? È probabile, perché poi... La Francia fondamentalmente è un paese maggioritariamente di destra, sì. Anche se poi c'è un contrappeso altrettanto forte, che è la funzione pubblica, che è un serbatoio di elettorale importante della sinistra. Però è anche vero che all'interno di questo grande... questa grande destra, no, con le varie anime, è un contrappeso forte rispetto al messaggio di Marine Le Pen. C'è del populismo, io non vedo populismo assolutamente in Alain Juppé, ci può essere qualcosa in Fillon. Attribuiscono a Fillon, secondo me, molto, cioè, esagerata questa cosa del rapporto con Putin, con la Russia. Secondo me non è uno degli aspetti più importanti, più qualificanti. Mentre le primarie del centro-sinistra saranno più avanti, saranno dovrebbero essere a gennaio. Sì, a gennaio. E lì è una tragedia. E lì è tragico, perché sia che sia il presidente Hollande, ma che sia Manuel Valls, come sembrerebbe, il disastro è preannunciato. Poi c'è l'incognita Macron. E poi, esatto, infatti, la mia ultima domanda era proprio questa, perché se ne parla, fa molto. Non farà le primarie. Fa molto. No, lui però sarà Macron candidato. È una passione mia e di Daniele, perché ci piace. Ha del bello, Macron ha del bello. Ha una bella storia d'amore, fantastica. Sì, si è sposato con la sua prof del liceo, quindi sogno proibito di chissà quanti di noi. È un personaggio intelligente, preparato. Fa parte di quella schiera di banchieri di sinistra, perché ce ne sono altri. Cioè, un esempio classico è Mathieu Pigas, che è il grande capo di Lazare France, che è anche un azionista di maggioranza di Le Monde e della rivista, una rivista di musica rock, adesso non mi viene in mente il titolo. Strano, perché tu sei un rocchettaro. Sono un rocchettaro, Les Arrocutibles. È come se, capito, un banchiere d'affari, uno di Mediobanca in Italia, si fosse comprato il Mucchio Selvaggio, l'ultimo Buscadero, lui prima di comprarsi Le Monde, questo Pigas, si è comprato questo Les Arrocs. Allora c'è un filone, no? E quindi Macron è una sinistra un po' strana, perché ex banchiere di Rothschild, ha fatto la carriera tipica da enarca. Però io mi ricordo il suo discorso, e anche tu te lo ricordi bene, a Sciences Po quest'estate, è stato uno dei discorsi più belli fatti sull'Europa. C'è la necessità di prima di lanciare le grandi riforme dell'Europa, di fare come dire, spiegarle ai cittadini, di fare una serie di referendum nazionali sull'Europa prima di imbarcarsi in nuove avventure. Secondo me è un discorso importante, però lui può portare via voti al centro, voti al centro, e quindi rendere più difficile al secondo turno la sconfitta definitiva di Marine Le Pen, come speriamo. Abbiamo quasi finito il tempo a disposizione. Io devo fare una cosa, ho aperto Instagram. Esatto, perché noi Attilio per finta l'abbiamo chiamato, segui, su. Perché mi hanno detto che devo seguire su Instagram. No, ma perché lui è bravissimo. Che belle foto. È un fotografo, io glielo dico, da mesi che deve aprire un blog sul sito del Sole. Fotografo, Attilio Gerone. Ma poi soprattutto troppo Instagram buono. L'hai capito perfettamente. Con una sorta di perversione per gli edifici. Sì. Allora, esatto, cioè la parola giusta è: ognuno ha le sue perversioni. Io ho una perversione per un certo tipo di edifici. Lo fetish proprio. Allora, sono nella maggior parte dei casi edifici costruiti durante periodi totalitari. Ti capisco, perché io quando sono entrata al Museo di Storia Nazionale di Sofia ho avuto una sindrome di Stendhal fortissima, perché lì capisci proprio il peso senso della storia, giustamente con la distanza. Bello, bello questo account Instagram. Però la cosa bella è che facendo le foto in quel modo, dandosi uno stile, ha capito esattamente, secondo me, come funzionano i social network. Cioè devi portare un'identità, un'idea, e insomma secondo me funziona. Beh, lo dite voi, io non lo sapevo, non lo immaginavo, così, ma me va sì. Bene, siete voi gli esperti. Seguiamolo su Instagram, Attilio Geroni. Grazie per essere stato con noi, Attilio. Allora ti rapiamo ancora dai piani alti del sole per spiegarci un po' di queste elezioni francesi che più secondo avanti. Me ci appassioneranno. Più avanti, ci appassioneranno. Sì, sì, sì. E adesso traffico. Traffico, tra poco. Grazie. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. YouTube. Oh, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte. E quando si gira il mondo, l'America, Londra, Francia, noi sempre qui, tu e io. Io e tu. Te, che noia, che, che barba. Grandi. Daniele, cosa ti è piaciuto ancora questa settimana? So che ti sei fermato a guardare dei cartelli. No, ma questo è già da un po', l'avevo segnalato già da un po'. Allora, te li leggo, tu devi indovinare chi dice almeno questa cosa. Almeno a Milano, no? Questi cartelli ci sono. Sono molto famosi. Pontida, vendo casa composto barcone. Chi l'ha detto secondo te? Come si chiama chi l'ha detto? Solo il nome proprio, che non possiamo dire i cognomi. Che... Vendo casa composto barcone. Ti aiuto. Dicono sia fidanzato con una persona che lavora nel mondo della televisione. Si può dire questo? Non lo so se si può dire. Vabbè, passiamo al secondo. Allora, l'altro è, ho fatto anche rumore, Arcore. Questo è facile. Vendo villa con giardino, trattativa riservata. Come si chiama di nome proprio lì vicino, vi mercate? No. Vabbè, ma non sei preparata per niente. Allora, spostiamoci a Roma. Cerco casa fuori dal comune. È una femmina. Fuori dal comune, nel senso straordinario. No. Vabbè, questo lo saltiamo perché è dello stesso partito movimento. Milano, cerco casa bianca, zona Washington. Abbiamo parlato. Questa vabbè, è facile. Questa è facile. Allora, questa è la pubblicità di un cerco. La trovate nelle metropolitane di Milano. Sì, sì. La vede. Però questa è la prova che le pubblicità devono essere già pensate per diventare virali. Certo. In questo la politica aiuta. Non è stata così tanto usata in passato la politica, no? Nelle pubblicità. No, tu anzi, era un tabù una volta. Era un tabù, e poi questa ironia mi sembra molto carina. Sì, perché dopo tu fai le foto, fai la gallery, diventa Facebook, Instagram su le cose. Sì, è divertente, bella idea. Guardate. Poi magari un giorno chiameremo un pubblicitario per chiedere se questo poi aiuta davvero anche sul prodotto. Magari però... condividi tanto, come si diceva una volta, no? Piazze piene, urne piene, esatto, piazze vuote. Magari ci informeremo, Oppure il contrario. C'è anche uno spot però che viene... Io l'ho visto condiviso tanto su Facebook, questo spot. Quale? Di quale vuoi parlare? Quello della partita IVA. È giusto, perché per i nostri telespettatori. E lì invece è più video come cosa. Sì, sì. Si gioca molto più sull'ironia. È quasi... Cioè va verso gli youtuber che abbiamo avuto spesso ospiti, vero, no? Certi vero. Un po' di quello che tu hai visto in, come si chiamano, i The Jackal, c'è un po' i The Pills. C'è un po'. Voi vogliamo sentire un pezzo? Allora sentiamo come dovreste inizia. Vedere soprattutto la protagonista, la signora. Però vabbè, potete sentiamo, immaginarlo. Vi mostriamo alla radio come inizia. Questo sei tu, italiano, trentenne, talentuoso. E questa è la storia di una relazione che conosci molto bene, amico mio. Ciao. Ciao. Sei il numero 090-03-26-0966? Mm-hmm. Piacere. Era così avanti, libera, leggera. Non avevi proprio idea di cosa ti stava aspettando. Lei è la tua partita IVA. Faremo grandi cose insieme. Ma... Insomma, lei inizia bene. Lei mi sembra già solo a sentirla mi sembra notevole. Mi sto innamorando anch'io della partita lei IVA. Lei apre la porta ed è una è proprio l'amore a prima vista che sboccia in tutti noi maschietti. Sì, lui è un po' nerd. Lei è un po' nerd. Lui però non bruttissimo, cioè è un normale. Sì. Tipo me. E arriva partita IVA. Arriva partita IVA e lui perde ovviamente la testa, si innamora, sta lì con la maglietta con scritto partita IVA, se l'annusa, tanto è romantico. Poi ovviamente c'è il lettore. Ci fermiamo, ma... Ma finirà bene? Come tutte, quasi tutte. Così finisce. Che giorno è oggi? Oggi è il nostro secondo trimestre anniversario? No. Oggi c'è da saldare l'anticipo IRPEF. E così inizi a fare pensieri strani. Magari provi a guardarti in giro. Posso darle una mano, signora? Ma si vergogni. Che bel bambino. È una bambina. Ti fai abbagliare da altre possibilità. 13. Finché un giorno non ti ritrovi a toccare il fondo. Ciao, Belo. Mario, terza B. Giuseppe. Beh, insomma, finisce un po' nel baratro. Sogna sì. La tredicesima, che tra l'altro è una ragazza molto prosperosa. Sì, e poi sogna il posto fisso, sogna che è una ragazza molto prosperosa in un altro modo, ma sempre molto prosperosa. Sì. E poi finisce con Mario. E poi diciamo che siccome è una pubblicità, la soluzione si trova. Ecco, sì, la soluzione mi hai spiazzata. Comunque cercatela, noi non diciamo la marca, potete vedere, trovare. Però ne parliamo solo perché sono spot fatti già perfetti per la rete. Sono U-Spot. Mi piace U-Spot. Allora, a me è piaciuto molto quello, credo, della British Airways, già natalizio, dei due orsetti che viaggiano. E che sono praticamente, ti immagini che siano un regalo di Natale, sono due orsetti animati che viaggiano e quando arrivano a destinazione in realtà si scopre che è tutta una metafora, perché in realtà sono il nonno e la nonna, e il regalo di Natale più bello per un bambino sono il nonno e la nonna che tornano. Io pianto subito. Commozione. No, pianto tantissimo, ma quello che mi ha fatto piangere di più, purtroppo alla radio non si vede, ve lo raccontiamo un po', inizia così. Allora, suonano alla porta. Hello, I would see you. E i due signori anziani che si incontrano per chiacchierare davanti a un tè sono un imam e un prete. È un prete, un vicar, c'è scritto nella descrizione di questo spot di nota catena che vende tutto online. E che credo abbia inventato il Black Friday di cui è all'inizio. Esatto. Così crediamo. Spot che in realtà viene trasmesso in alcuni paesi come Regno Unito, Germania, ma che sta facendo il giro del mondo. Davvero è stato condiviso da tutti i siti online in queste ore. Perché ma raccontiamo. Il prete e l'imam sono in realtà due vecchi amici, sì. E tutte e due si capisce che si lamentano perché hanno male al ginocchio. Eh sì, perché si devono inginocchiare. Entrambi, no? Si devono inginocchiare. In modo diverso, ma simile. Allora cosa fanno? L'uno all'insaputa dell'altro fanno un acquisto online con quel sito lì, quello che arriva subito. E si scopre che si sono regalati la stessa cosa, hanno avuto lo stesso pensiero. Ma lo diciamo cosa? Lo diciamo? Ma sì, dai, carina, diciamolo. Si regalano le ginocchiere che loro mettono sotto il saio, insomma sotto la tunica, e per così si inginocchiano e fa meno male. Ma io mi sono proprio commossa, devo dire la verità. Tra l'altro è girato da Dio. Bellissimo, è girato da Dio, l'hai detto. Non era voluto. Va bene. Se andate a vedere su YouTube leggete anche i commenti, perché ci sono alcuni commenti molto belli, alcuni commenti come al solito molto cattivi, da una parte, dall'altra. Secondo me danno molto il senso della rete, di quello che io devo dire che mi sono commossa, perché è bellissimo dolcissimo. Spot, andate a guardarlo perché vale veramente la pena. Stiamo dando i compiti a casa, sì. Andate a guardare quello, ma mi piace anche ogni tanto parlare di spot pubblicitari, perché appunto sono una delle cose più efficaci che girano in rete. Ma il tempo a nostra disposizione. Quando fai così, va bene. Stiamo chiudendo la dodicesima puntata del quarto anno. Hanno cambiato Coppia Inedita dal sito dove possono prendere il podcast. È vero, dobbiamo dire, perché cambiate, c'è scritto Coppia Inedita. Ma noi siamo sempre inediti. Scaricate il podcast, seguiteci su con cancelletto Radio Tube, hashtag ISDV, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. Fate una buona settimana, Cristian Goldoni in redazione, ringraziamo Pietro Lacorte in regia. E ciao. We'll be right back.